Matiar Katz Blues. Il gruppo sono le Flying Lesbian. Ed è un pezzo non scelto casualmente per introdurre questa sezione. Qui davanti a me Nadia Pizzuti, cineasta, giornalista, femminista, la presentiamo così, poi ci dirà lei e ci dirà anche perché abbiamo ascoltato questo splendido pezzo di cui vi facciamo ascoltare il finale. Ciao Nadia, benvenuta al martedì autogestito da Femministe e Lesbiche. Partiamo da questo splendido pezzo musicale? Sì, ciao. E allora, questo pezzo era molto caro a Lina Mangiacapre, che l'ha usato per una sua, un suo film girato a suo tempo in Super 8 che si chiamava Anti-Strip. Quindi io a mia volta l'ho ripreso come colonna sonora di un promo che ho montato per promuovere un documentario che sto preparando su Lina Mangiacapre e che si produce attraverso la piattaforma di produzione dal basso. Quindi il promo serve anche a far conoscere la figura di Lina Mangiacapre e a invitare le persone a contribuire. Lina Mangiacapre, artista del femminismo, tu la definisci. Comunque, vabbè, questo progetto dal basso, della costruzione di un documentario appunto sulla figura di Lina, c'è stata la presentazione di questo progetto anche alla Casa Internazionale delle Donne ormai una quindicina di giorni fa. Se qualcuna insomma ci ascolta da fuori del raccordo anulare, c'è un'altra presentazione sabato prossimo a Napoli, che è la città dove insomma è stata attiva Lina Mangiacapre, e tutto questo appunto per costruire un documentario sulla sua figura con produzione dal basso. Vuoi spiegarci che significa un produzione dal basso? Beh, produzione dal basso è una forma di finanziamento popolare, no? Di un progetto che in questo caso è un film, può essere un libro, uno spettacolo teatrale, tante altre cose, e quindi è attraverso questa piattaforma le persone possono contribuire direttamente. Poi ci sono una serie di criteri, no, che non voglio spiegare, insomma, entrare nei particolari, e quindi si deve creare una sorta di comunità di interesse attorno a un progetto per poterlo finanziare. Poi naturalmente non sempre basta quello che si raccoglie, no? Si finanzia anche con cifre piccole, insomma, con quello che uno può togliersi di tasca, insomma. Assolutamente, in questo caso insomma, in tutti i casi anche con 5 euro si può contribuire. Qui abbiamo chiaramente, ci sono delle ricompense, no? Per cui chi da 10 in su avrà il nome nei titoli, chi dà 10 euro avrà il ringraziamento, il nome nei titoli di coda, chi dà 20 euro avrà anche il CD, scusate, il DVD del film. Insomma, adesso ci sono una serie di incentivi, diciamo, no? Però soprattutto lo scopo di un progetto non è solo quello di raccogliere soldi, ma di creare proprio un interesse, di far conoscere anche una figura, perché dopo il film comunque si realizzi avrà bisogno anche di una audience, insomma, di un pubblico, no? Sì, di un pubblico che insomma, come da questi microfoni, dai microfoni di Radio Onda Rossa, è un argomento molto caldo, perché Visionari ne parla molto dei documentari. Insomma, il pubblico dei documentari è difficile da costruire perché mancano gli spazi spesso, insomma, dove poterli vedere questi documentari, e quindi è ancora più importante. Poi qui si parla di un film di una donna su un'altra donna, di una femminista su un'altra femminista, e quindi, come dire, possiamo supporre che abbia bisogno di canali nostri anche per sapere insomma chi era Lina e per conoscere il film. Esatto, infatti i canali alternativi sono fondamentali, perché i donatori, magari ci sono le persone che donano in maniera molto generosa anche perché hanno dei mezzi, ma quello è un altro discorso. Quello che è bello attraverso i canali alternativi come appunto Radio Onda Rossa, ma poi ci saranno anche dei giornali tipo Il Manifesto eccetera, è proprio questo, anche di divulgare, che poi c'è il discorso anche della memoria, no? Perché si fanno dei documentari su delle figure, nel mio caso Lina Mangiacapre adesso, perché perché ci deve essere una continuità, no? Nel senso, queste persone, lei in particolare appunto artista del femminismo, perché ha fatto di tutto, cioè era un'artista a tutto campo, è stata pittrice, regista, attrice, è stata regista di cinema e di teatro, ha fatto tantissime cose, e quindi le tracce ci sono, soprattutto le tracce filmiche, se vogliamo, poi sono rimasti dei testi che ha scritto, però si tende a perdere, no? la memoria, per cui è importante non solo ricordare ma anche riattualizzare, rimetterla nel suo contesto, ma anche farla, divulgarla a un pubblico più vasto, e questo è anche lo scopo di una produzione al basso, piuttosto che... Diciamo che Lina Mangiacapri era una figura molto nota a chiunque frequentasse ambienti femministi, lesbici, soprattutto nel campo dell'arte, diciamo, fino a che Lina è stata in vita, cioè fino all'inizio degli anni 2000. Io personalmente, insomma, mi sento di condividere così questo ricordo, me la ricordo a vedere, era sempre presente alle edizioni del Festival di Cinema Lesbica Immaginaria a Bologna ed era impossibile non notarla perché si vedeva da lontano in sala il cilindro che portava sulla testa, bisognava anche non mettersi dietro di lei a sedere ovviamente, e era anche, come dire, una personaggia che dominava l'ambiente intorno, ecco, era molto performativa con il suo corpo. Esatto, infatti questa è la cosa che per me, personalmente, la cosa che mi interessa di più di lei è questo suo uso del corpo in un senso performativo, no? Che lei era sempre presente col corpo. Poi, appunto, chi l'ha conosciuta o ha visto le sue immagini si ricorderà che aveva questo look provocatorio, androgino, no? E però sempre mutevole. Quindi, appunto, una volta si metteva il cilindro, aveva questi occhiali fantasiosi, no? Questo look un po' dark, un po' mitologico. E quindi lei in tutto quello che ha fatto ci metteva il corpo. Dalla pittura, perché poi faceva anche degli autoritratti, fino al cinema. Lei in tutti i suoi film, sia quelli fatti in 35 mm classici, diciamo con un po' di mezzi, sia invece i video, insomma video prima anche Super 8 che faceva, c'era sempre lei. E nei film, quelli di fiction in 35 mm, lei faceva delle irruzioni fugaci, esattamente come faceva col suo gruppo delle Nemesiache nelle azioni politiche che appunto negli anni 70 ma anche negli anni 80 facevano a Napoli, no? Andavano in giro interrompevano dei convegni vestite a volte da uomini, no? Lei è stata in Italia sicuramente la prima ad aver usato la parola transfemminismo. Riprendendo un po' da capo, appunto, che Lina Mangiacapri, appunto, è una femminista napoletana degli anni, attiva già nei primi anni 70, che fonda con altre questo gruppo delle Nemesiache. Che altro ci racconti di lei? C'è tanto, ci sarebbe tanto da dire. Sì, lei era laureata in filosofia, per cui poi ha fatto tutto un lavoro filosofico mettendo al centro della sua ricerca il mito. Quindi lei diceva sempre questa Nemesia, che insomma il mito torna, esatto, evidentemente. Infatti lei uno dei suoi nomi d'arte, il suo nome, il suo pseudonimo, diciamo, è Nemesi, è da lì che è partita Nemesi, no? Questa dea che inseguita da Giove, che viene violentata, però lei si trasforma, no? Nel mito, ecco, quello che a lei interessava nel mito era la trasformazione, no? Che c'è. E si trasforma nella vendetta. Si trasforma nella giusta vendetta, che però, ecco, lì meriterebbe un discorso molto lungo. È una giusta vendetta. Loro non facevano azioni vendicative, non è che dicevano voi maschi siete delle merde, noi vi vogliamo ammazzare, non era questo, era molto più sofisticato, no? Quindi era sì rimettere al mondo il mito, come diceva lei, nel senso di rivisitarlo in chiave femminista, però in un senso più appunto performativo. Non era la vendetta, facciamo chissà che, siamo noi che col nostro corpo, no? Che facciamo delle azioni, non è contro, bensì forse più che contro, dopo o prima e dopo, no? Cioè queste trasformazioni continue. Quindi Nemesi era quella su cui ha lavorato, ma non solo, ha lavorato su varie figure mitologiche, quindi per lei questo è stato molto importante, no? Anche se appunto io, siccome non voglio fare un ritratto di Lina Mangiacapri nel mio documentario, ci sarà il lavoro sul mito, ma non sarà il fulcro. Questo già, insomma, lo posso dire che non è, sarà comunque per raccontare quello che ha fatto. Sì. E appunto questo gruppo, le Nemesiache, per esempio, ha organizzato per alcuni anni un festival del cinema femminista a Sorrento. Esatto. Quando lo collochiamo nel tempo? Nel 76. Questa è la cosa che a me piace di più, no, di quello che ha fatto, perché lei nel 76 crea un festival, il primo in Europa festival femminista e di cinema femminista, all'interno degli incontri di Sorrento. E molte si ricorderanno, insomma, le più grandi, che partivano anche da Roma, da altre città o luoghi in Italia, no, per andare a vedere film, perché lei ha fatto scoprire al pubblico, un certo pubblico chiaramente, pubblico soprattutto impegnato delle femministe, anche di molte artiste, ha fatto conoscere per esempio tutto il nuovo cinema tedesco delle donne, tipo anche la Fontrotta nella fine anni 70 nessuno la conosceva, e poi Elma Sanders Brians, quella che fece Sotto il selciato la spiaggia, quindi addirittura lei lo fece, mi sa, proprio a fine anni 60, però Lina Mangiacapa e le Nemesie, che poi divulgarono anche negli anni successivi, poi Ulrike Oettinger, che faceva un cinema sperimentale, no? E non solo il cinema tedesco, anche il cinema francese, Marguerite Duras, Chantal Ackerman, insomma ha fatto un lavoro enorme ed è durato più di 10 anni, chiaramente sempre con la fatica di ottenere i fondi, perché c'è questo, chiaramente era un periodo in cui la crisi forse mordeva meno rispetto adesso, però e dovevano anche trovare una sponda, non era facile, no? Per, già come si presentavano loro, sempre vestite appunto, poi sempre con questi abiti mitologici, sempre questo gruppo che faceva anche un po' paura, anche a Roma, cioè loro venivano, erano anche aggressive a volte, no? Qualche volta. E quindi questo festival è stato fondamentale. E poi avevano questa rivista Manifesta, che è durata, ha continuato anche dopo la morte di Lina sul web. Poi appunto lei ha dipinto anche molto, ha scritto poesie, ha scritto romanzi, insomma è proprio una creatrice a tutto campo, e la grossa novità nel femminismo di quegli anni era mettere la creatività al centro della politica, che non era sempre il caso, insomma altre femministe facevano politica, facevano i gruppi di autocoscienza, loro proprio si muovevano su questo discorso della creatività. E lei ha inventato, lei con anche le sue compagne delle Nemesie, che ha inventato anche la psicofavola, che lei per lei era un metodo anche di autocoscienza, no? Negli anni in cui si praticava l'autocoscienza tra donne, lei la praticava, però diceva a modo suo, cioè mettendo sempre in gioco il corpo, quindi facendo teatro, e loro hanno tra l'altro in particolare teatro. E quindi hanno non solo rivisitato le favole classiche tipo Biancaneve, Cenerentola, ma anche altri, hanno fatto, non so, Siamo tutte prigioniere politiche, no? Un spettacolo del fine anni 70, cioè erano veramente all'avanguardia, e tanto erano anche queer ante litteram, quando nessuno parlava ancora di queer, perlomeno in Italia. Quindi primi anni 80, e loro con col transfemminismo, le transnemesia, che erano all'avanguardia, fecero appunto un'irruzione in un convegno a Napoli l'8 marzo, in cui c'era, non so, anche Rossana Rossanda, e vestite da uomini, no? E cose che insomma all'epoca non faceva nessuno, ed erano anche un po' sospette agli occhi di tante femministe. A me questo mi piace, questo cotè provocatorio anche di lei. Senti, per non parlare solo noi, ma lasciare un po' la parola a Lina, facciamo sentire almeno la voce, visto che come dire, l'immagine di Lina è molto forte nelle sue foto, nelle immagini che abbiamo, insomma, anche se però insomma in una radio dobbiamo accontentarci della voce, e quindi vi facciamo ascoltare la voce. Un sogno. Musiche, incontri, sogni. Attraverso il sentiero sconosciuto dell'onirico. Un programma di Lina Mangiacapre. Questo è un programma radiofonico, credo una decina di puntate, che fece nell'84, mi sembra, e alla RAI, che appunto si intitolava Ho fatto un sogno, in cui lei, un po' autoreferenziale, come avete sentito, che dice un programma di Lina Mangiacapri, e c'è pure la musica che lei insieme a Nemesia che eseguì, componeva, diciamo così, e performava in varie occasioni questa musica che lei definiva musica cosmica o musica delle sirene, e che appunto sempre collegato al discorso del mito, no? Quindi musiche arcaiche. E questo programma era appunto Ho fatto un sogno, perché intervistava ho intervistato delle personalità, tra cui in questo caso era, questa era la prima puntata, era Sergio Piro, uno psichiatra napoletano che è appunto un basagliano, che appunto racconta un sogno e poi parlano insieme di questo sogno. Lei in ogni puntata intervistava una personalità diversa, e tra l'altro con Sergio Piro ha fatto una cosa molto interessante tra il 77 e 79. Lui era il direttore del Frullone, un ospedale psichiatrico di Napoli, prima della legge Basaglia, quindi prima della chiusura dei manicomi, e ha avuto la possibilità per 2 anni, insieme anche alle Nemesiache, di lavorare insieme alle psichiatrizzate, e quindi è stata anche quello è un'esperienza documentata attraverso dei filmati che molto interessanti. Senti, per poi tornare a parlare del film in special modo, chiudiamo il discorso su Lina, indicando magari anche, esiste un sito sulla sua figura per chi volesse insomma documentarsi di più? Sì, sì, esiste il sito ufficiale, basta cercare Lina Mangiacapri, mi sembra, .org. E esiste ancora il gruppo delle Nemesiache. Esiste il gruppo delle Nemesiache, esiste l'associazione Le Tre Ghinee Nemesiache, che fu fondato appunto da lei negli anni 70. Era una cooperativa all'epoca che appunto produceva tra l'altro tutti questi spettacoli, performance, film, tutto quello che facevano, e adesso è diventata un'associazione che è ancora attiva. C'è anche il premio Lina Mangiacapri a margine del Festival di Venezia. C'è un premio che viene assegnato da questa associazione, di cui fa parte la sorella Teresa, una delle animatrici principali, e che con una giuria, e assegnano un premio a un film del Festival di Venezia che, in cui la figura della donna non è soltanto una vittima, ma una protagonista, quindi i film in cui c'è una figura forte di donna, film fatti da uomini o da donne. E il sito ufficiale è linamangiacapri.it, vedo. Ah, ecco, sì. Adesso e, invece, tornando appunto al tuo film, al tuo progetto di film che inizierai però a girare a breve, insomma, con questo sostegno popolare allargato il più possibile, su cosa lo centrerai di più? Allora, appunto, come dicevo, voglio fare soprattutto un film di montaggio, perché la produzione appunto, diciamo, filmica di Lina è talmente vasta, ma anche non solo, ci sono anche dei testi molto belli, e poi ho anche tantissimi materiali, tante foto di lei, di quello che faceva, che ho fatto questa scelta, quindi spiegalo per noi profane, un film soprattutto di montaggio significa che la parte girata ex novo sarà limitata, quindi userò dei cosiddetti materiali di repertorio, ma in questo caso sono materiali di repertorio soprattutto appartenenti a lei, che la sorella Teresa mi ha dato, quindi il suo girato, anche il suo girato, delle cose, sì, foto in cui c'è anche lei, sì, sì, poi insomma c'è qualche un'intervista alla RAI, che è fatto in RAI, insomma sono soprattutto, sì, materiali suoi. È talmente ricco questo materiale che ho preferito fare così, perché mi sembra più interessante in questo caso, insomma. Vedo qui, insomma, è un film appunto di una femminista su una femminista, e sono tutte donne, mi sembra di vedere a prima occhiata, insomma, lo staff di chi girerà questo film, insomma anche lo staff tecnico, ecco. Esatto, siccome appunto questa è anche una scommessa, ed è anche uno dei motivi per cui ho fatto questa produzione al basso, è che vorrei, se non al 100%, al 98%, che fossero tutte professionalità femminili. Ma non solo, adesso a monte della lavorazione del film ci sono delle giovani donne napoletane, precarie, universitarie, come Tristana Dini, Stefania Tarantino, che erano anche amiche, che erano allieve anche della filosofa napoletana Angela Putino, sulla quale avevo fatto già un documentario, e con le quali abbiamo elaborato anche un po', no, questo film. E poi sì, c'è Emanuela Pirelli, che farà la fotografia, insomma, farà le riprese, c'è Susanna Martin, che è una bravissima vignettista umoristica di Barcellona, che è stata pubblicata anche in Italia, tra l'altro. E poi userò delle voci fuori campo di un'attrice napoletana, Cristina Donaddio, piuttosto nota, attrice di teatro e di cinema, Enza Di Blasio, che è anche musicista. Ci sarà anche un aiuto regista, Lina Cascella, napoletana, e poi la montatrice, che invece è romana, Sara Pazienti, che è una stupenda montatrice, che è ormai diventata il mio referente in questo campo. E la musica delle Fly on Lesbian? La musica è appunto quello che è molto importante, che è una delle nostre, il nostro gruppo è andata di recente a Berlino, ha incontrato le Fly on Lesbians, le quali ci hanno autorizzate a usare la loro musica senza pagare i diritti, che per una produzione così povera è il massimo che si possa ottenere, perché e quindi naturalmente citandole. Quindi probabilmente non useremo solo Matriarchat Blues, ma anche altre musiche. Quindi a questo punto io sentirei un altro pezzo delle Fly on Lesbian e poi torniamo in voce per darvi qualche dettaglio su come contribuire a questo progetto. Down. I heard you screaming and a whisper. 17:54, martedì autogestito da Femministe e Lesbiche. Stiamo parlando con Nadia Pizzuti, cineasta, che sta presentando qui dai microfoni della radio il suo progetto. Lina Mangiacapri, artista del femminismo, un documentario appunto sulla figura di Lina Mangiacapri. Abbiamo ascoltato Battered Wife, che è una delle tracce del CD, insomma, delle Fly and Lesbian, che sono, diciamo, una parte della musica che animerà questo film, ma non sono le uniche musiciste che prenderanno parte all'elaborato. Sì, infatti no, useremo un po' di Flying Lesbians e poi useremo anche, ci sarà sicuramente una canzone di Stefania Tarantino con l'Ardesia Band, la sua Ardesia Band, e che suonerà anche tra l'altro all'interno del film, la si vedrà suonare il pianoforte e cantare un testo di Lina Mangiacapri, c'è cioè una canzone composta su un testo di Lina Mangiacapri, e forse farà anche altre musiche, poi useremo anche chiaramente un po' di musiche delle stesse Nemesiache. E per partecipare, insomma, anche con un po' di denaro alla questa produzione dal basso, bisogna andare sul sito www.produzionedalbasso.com e cercare Lina Mangiacapri, artista del femminismo, è il titolo completo, ma insomma lo trovate facilmente. E non so se vuoi fare un appello alla partecipazione, ti lasciamo i microfoni per farlo. Sarò breve. Sì, certo, è un progetto, credo che sia importante appunto per il discorso che si faceva sulla memoria. Come ha detto un giovane musicista, Antonio Fresa, che è una frase che mi è piaciuta molto, l'ha scritta, è un donatore oltre che musicista, lui è un donatore al nostro progetto, e la memoria è la vitamina della civiltà, e noi potremmo anche, parafrasando, dire la memoria è la vitamina del femminismo, e quindi è molto importante proprio per conservare, non solo riattualizzare, e poi è una figura che merita veramente tanto, chi non la conosce avrà l'occasione di conoscerla, e sarà anche un documentario divertente, perché io privilegerò la chiave ironica e autoironica della sua figura, quindi vi invito a contribuire o comunque a sostenere il progetto già, e ringrazio tantissimo Elena e tutta l'equipe di Radio Onda Rossa per questo sostegno che sento, questo calore che sento forte. Beh, qualunque, come dire, progetto femminista, speriamo che insomma trovi un posto accogliente qui al martedì autogestito da Femministe e Lesbiche. Vi ricordiamo ancora www.produzionedalbasso.com, dove si può anche vedere il trailer già girato di questo progetto di documentario, e www.linamangiacapre.it per informarsi sulla figura di Mangiacapre. Ringraziamo tanto Nadia Pizzuti per essere venuta qua. Grazie a voi. Ciao. Chiudendoci all'orizzonte. Scusate, ma abbiamo sbagliato. Vogliamo farvi ascoltare ancora un po' di questa bella musica delle Fly and Lesbian, però vi facciamo ascoltare, sì, la terza traccia ci piace. Che sono? Schokoladenfabrik geht Doch ich schlage mein